Va bene, ci siamo. Del mio mondo e non c'è via d'uscita. La matita serve a cancellare una parola non pulita, ma sentita nella circostanza. La testa mi porta avanti verso pensieri senza sostanza, e la lontananza dai miei obiettivi non ne ho voglia. Una foglia mi impedisce di varcare quella soglia. Io ladro nel pensiero di quella troia che mi spoglia. La vita felice vissuta senza pensieri mi annoia. Io sono un problema e le mie scelte è il mio dilemma. Io guido la mano che guida la macchina che resta ferma e si sofferma sulla riga di un foglio nella notte, riga nella quale mancano delle espressioni contorte. Non sono forte e la morte è un'amica vicina. Per la prossima barra non troverò mai una rima. Io nemico di me stesso, arresto me stesso. Sono vittima parassita del gesto che farò adesso. Nulla posso fare per salvare la mia vita. Tutto senza elastico, qui finisce tutto. Io ci provo ma non trovo una via d'uscita. Scarpa vecchia, adesso mi butto su un filo appeso alla mia vita. La chiudo qui perché so che è finita. E quindi insieme a me butterò via la matita, perché non scriverà il risultato della partita. Questo ponte farà di me un sasso pesante, l'amarezza tra i miei denti nel respiro arrancante. Sono un fante che sta dietro il culo di sua madre, un bambino che corre, corre, alla fine cade. Sono per voi quel che sono per me medesimo. In classifica di 12 arrivo tredicesimo. Ditemi mo, cosa faccio non lo so. Ho buttato la mia vita e butto via me, perciò quello che ho cercato altrove lo troverò. Ma sono una porta chiusa di un cazzo di metro. La speranza che ho adesso prima non l'ho avuta. Sono il marito cornificato dalla moglie cornuta. Posso ancora vivere, ditemelo adesso. Prima si faccia la parte buona di me stesso e tutto il resto lo butto nella corrente. Sono il presentatore grasso che prende in giro il concorrente. Nulla posso fare per salvare la mia vita. Tutto senza elastico, qui finisce tutto. Io ci provo ma non trovo una via d'uscita. Scarpa vecchia, adesso mi butto su un filo appeso alla mia vita. La chiudo qui perché so che è finita. E quindi insieme a me butterò via la matita, perché non scriverà il risultato della partita. La mia vita passa via così in 30 metri. Sono la striscia che ti serve per riempire il muro quando giochi a Tetris. Sono il tuo giocattolo che osi un pochino, un nascondiglio di merda mentre giochi a nascondino. Il mio mondo mi ha tradito, la mia voglia di vivere si nasconde dietro un dito. Ma il dito di un gigante che mi stringe tra le mani. Chiuderò gli occhi bagnati finché arriva domani. Sono tra i profani. Nulla posso fare per salvare la mia vita. Tutto senza elastico, qui finisce tutto. Io ci provo ma non trovo una via d'uscita. Scarpa vecchia, adesso mi butto su un filo appeso alla mia vita. La chiudo qui perché so che è finita. E quindi insieme a me butterò via la matita, perché non scriverà il risultato della partita. Nulla posso fare per salvare la mia vita. Tutto senza elastico, qui finisce tutto. Io ci provo ma non trovo una via d'uscita. Scarpa vecchia, adesso mi butto.